Meno voce spia. Disforia. Thank you. Grazie, Lena. Nuova realtà. Oh! Grazie raga. Stop, stop, stop. Chiudiamo con un pezzo nuovo sempre. We'll be right back. tutti, ragazzi. Bella.